la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Dicevamo poc'anzi 87,9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Radio Onda Rossa, questo è 25 o'clock. In una versione ritardataria, ma non rinunciataria. La settimana scorsa non siamo riusciti ad andare in onda, non saremmo riusciti comunque in diretta per concomitanti impegni inderogabili. Siamo riusciti questa settimana, questo mercoledì, ormai 2, quasi 3 di dicembre. E quindi ci intratterremo nella notte di Onda Rossa per un'oretta e mezza circa, cercando di disturbare quel che avanza prima del sonno. Perciò spegnete le televisioni, lasciate perdere le serie TV. Staccatevi dai social network. Accendete quel vecchio attrezzo, quel vecchio elettrodomestico. Se al valvole suona meravigliosamente, se al transistor ancora, se in cuffietta va bene. You're not so free to be so unprotected. The secret Mona Lisa. Sintonizzate e sintonizzati sulle frequenze di Onda Rossa. 25 o'clock. Suo avviso di disconnessione, che è quello che stavo anticipando poco fa. Radio Onda Rossa, che dal 1977, oltre 43 anni fa, vive senza aver mai ricevuto un soldo da partiti o partitini politici o dalla pubblicità. Vive grazie al contributo di tutte e tutte voi, dall'ausilio che ci date, dal supporto, dall'aiuto diretto e indiretto. Essenzialmente Radio Onda Rossa è una radio di movimento e che quindi vive all'interno di tutte le situazioni che lottano. Singoli e collettivi che la sostengono. Fonte di informazione, di controinformazione, di denuncia, di critica, di contributo al dibattito inderogabile. Ed è per questo appunto che in tutti questi anni è riuscita a trasmettere dapprima sui 93.3, 93.4 e 50 e poi sugli 87.9 da più di una ventina d'anni ormai. Forse un po' di meno, forse qualcosa di meno, di una quindicina, non ricordiamo più. Sì, perché quando c'è l'avviso di disconnessione, c'è l'avviso di disconnessione da tutto. Quindi, se volete che questa emittente continui a

si può dire di questa meraviglia? Non lo so, dicono la session più lunga della storia. Comunque un miracolo, in qualche maniera una magia che si ripete. A distanza di uno o due anni siamo arrivati al volume 11-12, non abbiamo ancora capito perché sono in coppia, quindi sarebbe la sesta poi edizione, perché ogni volume è uscito come doppio. 1 e 2, 3 e 4. Stiamo parlando di Desert Session, essenzialmente, se vogliamo ridurre all'osso, è uno sclero di Josh Homme. Ma insomma sarebbe veramente sminuire appunto questa magia che si ripete. E essenzialmente dentro questo rancio nel deserto del sud della California si vedono questi ragazzotti amici, cominciano a suonare, registrano, producendo tra l'altro dei suoni incredibili. È il caso di questa ballata, If You Run, Desert Session. Fit Lip Grace, quarta traccia del lavoro. Invece questo è Fat Jack Scherz. Noi li ascoltiamo da capo, direi, appena si accende tutto. Settima traccia quindi per Desert Session, Something You Can See. Radio Onda Rossa 25 o'clock. say one more year. I'm wondering if I get the right amount of sleep. Questo è Kevin Parker in versione 2020, ossia Tame Impala, in cui è rimasto solo quello che era il chitarrista e ora manipolatore di suoni e one band. One man, man band. E fino a questo momento, insomma, li abbiamo accolto così in un caloroso e post piovoso, una post piovosa no, ma non avete capito bene, non saremo così clementi. passato più di un quarto di secolo da quando usciva questo Read of Me, lavoro del 1993 per quell'epoca della giovanissima PJ Harvey. Secondo lavoro ruvidissimo, acerbo, acido, quasi stucchevole. Non poteva essere che la PJ di quegli anni fosse proprio presentata dalle parti nostre di Radio Onda Rossa. Caronte era letteralmente ammaliato dalla giovinetta britannica. E non potevano essere che questi suoni registrati invece da Steve Albini, cioè da quell'odiatissimo, odiosissimo personaggio. Qui potremmo affibbiare un gran numero di difetti di tipo di patologia, di sociopatologia più che altro, nel rapporto con gli altri, di megalomania e egocentrismo, perfezionismo. Ed era proprio questo, tutto sommato, registrare o suonare. Una maniera in cui poi tutta l'imperfezione diventa invece perfezione, diventa invece parte, il corpo della registrazione diventa quasi il suo valore, diventa il suo valore aggiunto, senza quale far sentire gli errori, far sentire le stonature, farle diventare suono, farle diventare il suono dell'oggi. E quindi se è un sociopatico è assolutamente d'altro canto. L'icona di questi almeno 35 anni, insomma. Quindi dopo PJ Harvey non poteva che andare in onda un disco, una incisione, una registrazione ancora meglio dell'anno dopo, diventata incisione. Si tratta di Dave Pill, cioè quel programma radiofonico in cui anche qui la registrazione live, ruvida, unplugged, diventa invece suono splendido, di grande atmosfera. Nella trasmissione di David Bill, quindi gli Shell accavano a registrare nel 1994 quattro tracce, e poi nel 2004, 10 anni dopo, un numero maggiore. Ascoltiamo Uscite ora in un disco, ascoltiamo gli Shell da questa registrazione degli Shell a Crow nel 1984 e Dendro Radio nel 2004. Eccoli qua. Straight to her.

is a test. This is a test. If this had been a real emergency. Hey, hey! This is a real goddamn emergency! It's the end of radio! Is it really broadcasting if there's no one to receive in? Me and my favorite records. You could call it dead air. I think that's rude. Can you hear me now? To thank our sponsor, but there is no sponsor. Martina Navratilova could not get a sponsor. Martina Navratilova, your name is really fun to say. Martina Navratilova, I'll be your sponsor. I want to sponsor you, Martina Navratilova. Is this thing on? Conclude anche lo stesso Steve Albini, confessando che il nome Martina Navratilova suona estremamente bene. Ebbene, ecco, questa era John Peel Session in BBC da parte degli Shellac, un lavoro uscito nel 2019, dicevamo, ma chi riprende registrazioni effettuate nella trasmissione di John Peel nel 1994 e poi 10 anni dopo nel 2004, quando gli Shellac hanno all'attivo non tantissimi più album, perché poi adesso andando a memoria dovremmo trattare comunque di primi 2, 3, 4 album, insomma. Insomma, questo per dirvi che invece ci è arrivata una registrazione fantasma, diciamo così, il cui autore è oscuro, ignoto, invisibile, e di cui abbiamo voluto nel nostro bilancio. Non siamo certo John Peel, che iniziò la sua carriera addirittura quasi in un... Can you hear me now? Parlare appunto quasi sembra una situazione onirica, a Radio Londra nel 1967, Radio Londra poi diventa BBC, BBC Radio, e insomma fino al 2000. Proprio, se non andiamo errati, sì. Per l'esattezza il 25 ottobre del 2004, quando John Peel, da animale di radio, decide di farsi prendere un infarto in Perù durante le vacanze proprio al microfono, e così concludere quella che è stata per anyone within the sound of my voice This is the BBC World Service. Per oltre 40 anni una carriera radiofonica che ha visto partecipare veramente alle sue trasmissioni Gotham, di tutto quello che c'era, che si muoveva e che era realmente distruttivo e spaccava, quindi da Floyd agli Oasis, ai Cure, a New Order, passando appunto per gli Sherlock Moonlight. Dicevamo, ci è arrivata questa registrazione, l'abbiamo un po' manipolata al nostro piacere, così che si possa parlare anche di colui che oggi ne parlavano tutti, perché un mese dalla scomparsa, quindi con la celebre telefonata. E quindi ecco qua, questa è la registrazione che ci è arrivata. Va bene, sì. di tutta pro... Tu! Tu di tu! Sì! Oh, no, no, tu... Sì! Guarda, io... No. Insomma, quanto ti serve? 5 milioni? Sì, quello si può fare, ma sai quanto prende? Di interesse. Sai quanto prendo di interesse? Quanto prendo di interesse? 90% a 2 mesi. D'altro canto è denaro costa. Mica non si trova mica sotto un mattone. Mette GLR, ci mette l'IVA. No, non posso farlo fare. 90% a 2 mesi. No, il 2% a 90 mesi. No, il 90. Guarda, non mi chiedere proprio una mesi di me, non mi conosce, siamo presi così. Così siamo, va bene? Ma nemmeno se cammini sui carboni ardenti. Non posso fare una mesi di meno, o è così, io te l'avevo detto che non così, va bene, a queste condizioni? Va bene, ci vediamo al bar fra 5 minuti, d'accordo? Ciao, ti scordai i cambiali, eh? Ciao mamma! Museum Avenue. Oh my God! Who's here? Del 92 e questo è sempre Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza. 06491750, recapito telefonico, ancora. In occasione di quel concerto, di quel tour, la festa di Trassi, più di una. Occasione estemporanea. Si produce anche un, oltre al live, un album da studio pubblicato nel 2018 con proprio il nome Zanichera e Stival Pino. E questa è la splendida Angel. Thank you. diciamo, nonostante che in questa edizione di 25 O'Clock avessimo, ci fossimo proposti di limitare al massimo le parole, il trasmettere dallo studio o il trasmettere da remoto, insomma, ci ha indotto a usarla qualche parola, a spenderla, e la spendiamo per gli slint, cioè per quella formazione che dal 1986 in avanti, le reunion e poi insomma un po' la conclusione per Brian McMahon, David Page, Britt Watford ed Ethan Butler, che di parole ne hanno spese pochissime su loro stessi, a giudicare di quanto poi la cosa importante fosse produrre suoni essenzialmente. Quello che abbiamo ascoltato è Roda, tratto da un EP, dall'EP del 1994, due tracce in cui le grafiche sono come sempre degli slint, ridotte veramente all'osso. In questo caso, oltre a esserci il numero di matricola del disco uscito, insomma, quelle scritte che sono indispensabili alla casa discografica per far uscire un disco, il numero di matricola, ma nemmeno il titolo, non c'è proprio niente, non ci sta il nome delle tracce. Il nome delle tracce si può rintracciare solamente andando a scaricare il disco, c'è scritto Roda nella versione. Anche discografica del CD, ma non sulla carta, ecco. Abbiamo detto, e l'abbiamo mantenuto, la promessa iniziale, cioè che dopo aver ascoltato in tranquillità ammaliante le prime tracce, insomma, era la bocco per farvi entrare nell'inferno di 25 O'Clock. Proseguiamo con l'inferno, ultima uscita per Russian Circles, riferito al circolo polare artico che proprio sopra la Russia, a nord della Russia, va a passare. Ci andiamo ad ascoltare, diciamo, dal loro lavoro del 2019, dicevamo, Portrait, e poi Milano, su cui però suoneremo e parleremo sopra per introdurvi la fine di 25 O'Clock C, che non è così fine, ancora non temete. Luna e 05 dopo la mezzanotte, Radio Onda Rossa, 25 O'Clock. Eccoli, Russian Circle. We'll be right back. questa era, come detto, la pesantissima Quartet che va a chiudere il lavoro. Che va a chiudere il lavoro dei Russian Circle, che si chiama Blood Ear. Settima e ultima traccia, quella che va invece sotto la nostra voce, è la terza traccia, che si chiama Milano. Ovviamente Russian Circle non possono che venire dalla Chicago del post rock. Stiamo parlando di Mike Sullivan, Dale Tankrantz e Brian Cook. Non temete, perché poi avremo modo di ascoltare e riascoltare questo lavoro. Peraltro, noi sempre alla ricerca di tracce strumentali da poter manipolare. E che, per cui, chi meglio di un lavoro di Russian Circle e dalla loro assenza pressoché totale di voce? Radio Andarosso 87.9 della modulazione di frequenza non si ferma. In special modo se comincia tardi. 25 o'clock. Cos'altro se non aggiungere una colonna sonora a un mondo che si disgrega di sé e che, seppur disgregato, rotto, stanco e moribondo, non smette però allo stesso di tempo di essere vivace. Costruttivo e distruttivo, insomma, stiamo un po' raccontando quel che ci appare la natura. Una natura numerata e poco descritta, in cui ci si ostina a voler trovare un'oggettività nei numeri. Trascurando sovente quella che è la soggettività delle impressioni. E dei punti di vista. O, come si diceva un po' di tempo fa, dei posizionamenti.

87.9 La modulazione di frequenza Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, il sito ondarossa@ondarossa.info, la mail. Il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Arboretore del 2001. (Ride) 00185, via dei Volsci 56, Roma San Lollo. È il conto corrente postale della radio. 2018 usciva Decade per Caibo 35, per chi ancora avesse avuto dei dubbi sulla qualità del suono, della esecuzione, degli arrangiamenti. Della band di Massimo Martellotta, Enrico Gabrieli, Fabio Rondanini, Luca Carina e alla produzione Tommaso Collino. Questi invece sotto la nostra voce sono Certain Radio. A forza di dire radio, Certain Radio. Loro produzione del 2020, Taxi Gold, la decima traccia. Lavoro che si chiama Essier Loco. Quasi una murgia. We'll be right back. pastore Mengimbaque Ngandala Mona Dottore Mengeza Geza Kubinga Mona Dottore Dottore Dottore Ngibane Mona Sangue de leite, aleluia, de Deza, mokanda, gandala, mune Doutore, ndibane, muna Sou doutore, sou doutore concludendo quella che è la storia di questa sera di 25 o'clock a Radio Onda Rossa. Con un altro di quei manipolatori che nel periodo ultimo ci piace di ascoltare e proporvi. E quindi le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa vanno a finire qui. Si riprende domani mattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, rassegna stampa cittadina, i redazionali della mattina fino all'ora di pranzo, poi si riprende con tutta scena cinema alle 14, Attica Blues, oltre al Black Music alle 16, le schiene del Soul alle 17, Bella Martis. Mezzedes, i redazionali di Radio Onda Rossa alle 18 in avanti, Tabula Rasa alle 20 e Apostasia a chiudere il palinsesto del giovedì di Radio Onda Rossa. Il nostro saluto più importante va a tutti e a tutte coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, i centri di detenzione per migranti, tutte istituzioni che manco per niente hanno attenuato il loro carattere autoritario in un periodo autoritario anche fuori. Ma d'altronde lo abbiamo detto ripetuto, che dentro e fuori le mura dei carceri, dei centri di reclusione, c'è una connessione che è molto più diretta che appunto le mura non possono certo attenuare, e l'un l'altro si rimanda nel progresso, questo sì, della repressione e del controllo. Bella così a tutti e a tutti, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. E perché inizia così? Hey brother, won't you please open up your heart for me now? And sister, the best dreams to dream sound for free. No more dead time, with you on my mind, with you by my side. Let's all share. dreams, I'll share our dreams under a communist.